24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che in un'audizione all'Europarlamento apre all'ipotesi di un nuovo trattato europeo. Resta caldo il fronte immigrazione, con l'appello sottoscritto da 5 paesi comunitari che chiedono a Bruxelles un sostegno più operativo. Non si fermano intanto gli sbarchi in Italia con gli immigrati, che proseguono anche il loro flusso verso Ventimiglia. E nel giorno in cui il governo italiano fa ufficialmente retromarcia sull'energia nucleare, la Confindustria critica le misure dell'esecutivo contenute nel documento di economia e finanza che sarà presentato a Bruxelles. In apertura, come dicevamo, l'audizione del ministro dell'economia Giulio Tremonti al Parlamento europeo. Secondo Tremonti, la definizione di un nuovo trattato comunitario è un'ipotesi da prendere in considerazione. I trattati sono stati scritti prima della globalizzazione. Sono stati aggiustati al margine, ma sono il prodotto di un mondo che è passato. Tremonti ha lanciato anche l'idea di un grande piano europeo per le fonti rinnovabili e la ricerca di energie alternative. Il piano potrebbe essere finanziato, a suo avviso, anche con gli Eurobond, l'emissione comune di titoli di Stato europei. Il tutto nel giorno in cui l'Italia fa retromarcia sul nucleare. Il governo ha deciso di soprassedere sul programma e ha inserito nella moratoria già prevista l'abrogazione di tutte le norme per la realizzazione di impianti nucleari nel paese. Al Consiglio dei Ministri è stata affidata la definizione di una nuova strategia energetica nazionale. La strategia terrà conto delle indicazioni stabilite dall'Unione Europea. Veniamo ora alla questione immigrazione. Ieri l'appello di 5 paesi all'Unione affinché Bruxelles sostenga a livello operativo e finanziario gli stati membri che sopportano la maggiore pressione migratoria, creando un apposito fondo di solidarietà e rafforzando Frontex. E quanto si legge nella dichiarazione congiunta che Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro hanno sottoscritto ieri a Nicosia e che porteranno alla riunione del Consiglio dei Ministri dell'Interno europei del prossimo 12 maggio. Nel flusso di migranti che parte dal Nord Africa potrebbero nascondersi terroristi. L'allarme lo ha rilanciato Europol presentando il suo rapporto annuale davanti alla Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo a Bruxelles. E sarebbero circa 760, secondo una prima stima, i migranti sul barcone approdato a Lampedusa dopo essere stato soccorso dalle motovedette della Guardia Costiera, tra loro numerose donne, molte delle quali incinte, e bambini, alcuni dei quali neonati. A Ventimiglia intanto continuano ad arrivare gli immigrati che, muniti di permesso temporaneo, documento d'identità e soldi sufficienti a garantire il mantenimento, provano a raggiungere la Francia. Stefano Zerbone, responsabile del centro di accoglienza di Ventimiglia. Dal 5 di aprile, quando abbiamo preso in mano la situazione come Croce Rossa, tutti i giorni abbiamo praticamente il centro di accoglienza che ospita 150 posti al completo. E nonostante tutto questo ho fatto in modo da sgravare la città e quindi da portare i profughi fuori dalla stazione, fuori dalla città. Non è bastato, in quanto ci sono altri arrivi e quindi giornalmente si fermano altri 50-60 immigrati nell'interno della stazione, nelle ore serali. E parlando alla Commissione Affari Esteri della Camera, il ministro Franco Frattini ha affermato che non c'è ancora una via d'uscita politica definita alla crisi libica. Per Frattini il problema sarà affrontato durante la prossima riunione del gruppo di contatto che si terrà a Roma nella prima settimana di maggio. Da una Libia in cui si prende o si prendeva il potere seduti su un carro armato, a una Libia in cui prenderà il potere chi sarà eletto nelle urne dal popolo libico. Questo è quello che noi ci aspettavamo per essere convinti di avere fatto bene a riconoscere il Consiglio nazionale di Bengasi e a spiegare ad altri paesi del mondo, dell'Europa e del mondo, perché anche loro debbono presto riconoscere questo organismo da cui nascerà la futura Libia a cui il popolo italiano è profondamente legato. Apriamo ora la pagina economica con le borse. Chiusura in rialzo per Milano. Il listino milanese ha chiuso in territorio positivo dopo lo scivolone della vigilia, grazie soprattutto al buon andamento dei comparti auto e lusso. Milano ha registrato un rialzo dello 0,3%, con Pirelli che ha guidato gli acquisti ed è salita di quasi il 3%. Bene anche Fiat, più 1,8%, nonostante il calo del 20% delle matricolazioni a marzo a fronte di una flessione delle vendite in Europa del 4,7%. In rialzo di oltre il 2% Tod's e Luxottica, che hanno beneficiato dei conti sopra le attese pubblicati da Louis Vuitton, ONC e dalla londinese Burberry. Bulgari è rimasta invece ferma al prezzo dell'offerta lanciato dalla società francese Louis Vuitton a 12,5 euro per azione, segnando più 0,08%. Per contro è scivolata Telecom Italia, meno 2,3%, sui timori relativi all'andamento del business del mobile in vista dell'approvazione dei conti del primo trimestre il prossimo 5 maggio. Secondo gli operatori, alcune banche d'affari hanno rivisto al ribasso le stime sui ricavi da servizi mobili, attesi in calo tra l'8 e l'11,5%. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Bene il rigore, ma ancora non c'è la scossa all'economia che in Italia le imprese ritengono non più rinviabile. Proseguono le audizioni sul documento di economia e finanza e sul piano nazionale delle riforme che saranno poi esposte a Bruxelles. I dubbi degli industriali nelle parole del direttore generale Giampaolo Galli. Queste previsioni, in particolare quelle sulla crescita, sottolineano ulteriormente quanto siano impegnativi gli obiettivi di riduzione del disavanzo pubblico, sottolineano altresì quanto sia urgente mettere in atto misure per rilanciare la crescita. Condividiamo l'affermazione contenuta nella premessa al DEF, al documento di economia e finanza, che senza stabilità della finanza pubblica non è possibile lo sviluppo economico. Sottolineiamo che specie nelle condizioni attuali è vera anche la relazione inversa: senza crescita è molto difficile conseguire la stabilità finanziaria, una stabilità finanziaria duratura. Le misure previste nel migliore, sia pure in termini e in linee generali, nel PNR produrranno una maggior crescita accumulata da qui al 2020 di 2 punti percentuali, posto che si realizzino. Si tratta evidentemente di un aumento molto modesto. A nostro avviso ci vuole molto di più, anche solo per rendere sostenibili gli interventi di finanza, gli obiettivi e gli interventi di finanza pubblica. Sottolineo nuovamente che i titoli che ci sono, diciamo, i capitoli che sono indicati nel PNR, a nostro avviso sono quelli giusti e sono condivisibili. Il punto è che vanno riempiti di contenuti. Dopo la pausa di febbraio, a marzo il mercato dell'auto in Europa torna negativo. Il mese scorso, nei 27 paesi comunitari, le nuove immatricolazioni, secondo i dati diffusi dall'ACEA, hanno subito una flessione del 4,7% rispetto al marzo 2010. Sentiamo. Meno 20% in Europa contro un calo del 5% delle vendite complessive di automobili. Nei primi 3 mesi del 2011 la Fiat ha perso ancora terreno nel suo mercato più importante. Una parte del fenomeno è legata in termini statistici al fatto che l'Italia va peggio degli altri paesi europei, ma Fiat cede rispetto alla concorrenza sia in casa, meno 29% contro meno 23%, che fuori, più 0,2% contro un più 2,3%. La quota del mercato europeo, controllata dal gruppo italiano, è così tornata nel primo trimestre al 7,3%, praticamente lo stesso livello del 2004, quando al Lingotto arrivò Sergio Marchionne. Il miglioramento dal minimo del 2005, 6,6%, al massimo dell'8,8% toccato nel 2009, era dunque di natura congiunturale, legato al successo di prodotti come la Panda, la Grande Punto e la 500, oltre che agli incentivi che nel 2009 favorivano i modelli più piccoli ed ecologici. Adesso che queste auto iniziano a mostrare i segni dell'età, le vendite mettono la marcia indietro, ma i modelli nuovi dal Lingotto arrivano con il contagocce per la frenata degli investimenti attuata negli ultimi 3 anni. Andrea Malan, Radio 24. Il Sole 24 Ore. La fine dei negoziati di adesione all'Unione Europea per la Croazia, che punta a porre fine al processo entro giugno, è a portata di mano. Lo hanno affermato a Bruxelles il ministro degli esteri ungherese János Martoni e il commissario europeo all'allargamento Stefan Füle. L'Italia, con Spagna, Malta e Portogallo, è uno dei paesi europei con il maggior numero di giovani che abbandonano la scuola prematuramente. Lo rileva un rapporto presentato dalla Commissione europea, in cui si ricorda che, secondo la strategia Europa 2020, tra 10 anni la percentuale di abbandoni in Europa non dovrebbe superare il 10% contro l'attuale 14,4%. E in chiusura una curiosità legata al calcio. I tecnici della Federcalcio spagnola avranno a disposizione un impianto audio da 100.000 watts nello stadio Mestalla di Valencia, dove stasera si disputerà la finale della Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid, per tentare di evitare che i fischi coprano l'inno spagnolo, come già successo 2 anni fa quando si scontrarono il Barcellona e l'Athletic Bilbao. All'inizio della marcia imperiale, l'inno nazionale, la maggior parte dei tifosi catalani e baschi prese allora a fischiare sonoramente in presenza del re Juan Carlos. Oggi si prevede che i tifosi del Barça ripetano la fischiata, mentre non si sa se quelli del Real Madrid risponderanno fischiando a loro volta contro gli avversari o cantando l'inno che però non ha parole. E per gli appuntamenti del giorno, oggi vi segnaliamo. All'Europarlamento si tiene una conferenza con il commissario ai servizi finanziari e al mercato interno Michel Barnier su innovazione e crescita delle imprese. Sempre all'Europarlamento, ma in commissione economica, il dibattito sui derivati. In commissione bilancio il commissario Janusz Lewandowski presenta il progetto di bilancio 2012. Ad Abu Dhabi, infine, è in programma il Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo alla presenza dell'alto rappresentante europeo Catherine Ashton. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.